Friuli nel mondo, 124esima trasmissione dedicata agli emigrati, Carosello di Villotte. Siamo certi che i vecchi melodiosi motivi popolari friulani, che ascolterete dal coro Sott la Nape di Villa Santina, diretto dal maestro Ernesto Dario, motivi tramandatisi da padre in figlio attraverso una lunga teoria di generazioni e che esprimono lo spirito della nostra terra con le sue tradizioni e con il ricordo delle sue vicende e delle antiche costumanze, riporteranno il vostro pensiero e il vostro cuore ai patriarcali fogolars del vostro e nostro Friuli. Di Giulio Moro ascoltate la villotta Mandi al Monte. Al mio amor è un grazioso componimento di Giulio Moro su parole di Silvio Polonia. Ascoltate ora questa villotta dal titolo Il Tor di Felet di Oreste Rosso. E Il Chanta dal Friul è un magnifico componimento di Cesare Augusto Seghizzi in onore della nostra terra. Ed infine eccovi di Arturo Zardini la stupenda villotta dal titolo C'è mattine. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo a cura di Ermete Pelizzari.